so che il tuo ricordo non scomparirà, e dentro di me, beh, lui rimarrà. Ancora un minuto, ancora un momento, signore e signore, prego state in silenzio. Eccomi qua, e quanto tempo è passato? Forse 2 anni, ma non ho dimenticato. Ho scritto per scusarmi e per raccontarmi, poco dopo aver abbassato gli sguardi. Ti penso ogni giorno, anche se provo solo odio. Ho capito che per te, beh, era solo un gioco. Che ti amo, sì, sai, te l'assicuro. Il fatto che non so mandarti più a fare in culo. Mi ricordo il giorno del nostro primo incontro, ma ero sicuro che era solo un sogno. Nella mano destra un piccolo anello, perdeva leva, molto più di un gioiello. Il fatto, hey, è che mi sento strano, pensandoti ho il telefono in mano, indeciso se chiamarti o dimenticarti, ma non riesco più a sopportare questi sbalzi d'umore. E forse era amore, o forse mi manca solo il tuo sapore. Forse saranno solo parole, ma ti assicuro che provengono dal cuore. Parole, parole, dette sopra ad un divano, ripenso alle parole che mi sussurravi piano. Forse era tutto sbagliato, ma quello che mi hai dato non l'ho dimenticato. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. So che il tuo ricordo non scomparirà. E dentro di me, beh, lui rimarrà. Ancora un minuto, ancora un momento, signore e signore, prego state in silenzio.